Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi cari amici da Nicoletta, come avete sentito dal GR vi aggiorneremo in diretta dal Quirinale e qui accanto a me Simone Spezia. Ciao Simo. Sì, buongiorno Nicoletta, naturalmente siamo in attesa, il professor Mario Monti, presidente del Consiglio incaricato, è salito poco fa al Quirinale per sciogliere la riserva e tra poco, dopo aver parlato con Napolitano, dovrebbe uscire e dare la lista dei ministri. Una volta che l'avremo commenteremo in diretta e cercheremo anche di capire chi sono. Grazie, allora nell'attesa noi possiamo partire. Ordinare? Un doppio pizza burger con patatine al chili e formaggio e un milkshake grande al cioccolato. Buona idea. Posso avere la stessa identica cosa? Perfetto, tu mi fai disconnettere. Sai, è bello vedere una ragazza ordinare un pasto vero. Io non vi sopporto quando ordinate un bicchiere d'acqua e un crostino. Fate passare la voglia di uscire con voi. Beh, probabilmente è quello che dovrei ordinare io, no? Ma... tanto, indipendentemente da quello che mangio, il mio peso non cambia, quindi me ne frego e mangio tutto quello che mi pare e piace. Sono d'accordo, se riesci a pensarla così, tanto di cappello. Non fare lo strafottente. Aspetta, perché? No, sto solo dicendo che mi sento male per le persone che contano le calorie, quello non è un modo di vivere. E allora basta con l'ossessione delle calorie, andiamo oltre. Pensiamo ad esempio agli effetti che il cibo ha sulla nostra salute e sul nostro benessere. In linea con noi il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging e autore di Mangia che ti passa. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta. Nutrirci e curarci, il binomio sta diventando sempre più evidente. Oggi l'invito che facciamo ai nostri ascoltatori è di considerare il cibo non solo come carburante, ma piuttosto come la principale occasione per mantenere, magari accrescere, lo stato di salute oppure recuperarla se l'abbiamo perduta. In fondo è la nuova sfida della nutrigenomica che dà valore scientifico ad un sapere antico. Il cibo come veleno, il cibo come medicina. Dottore. Sì, senza dubbio, diciamo che la visione del cibo esclusivamente come di una fonte di energia rimane certamente valida, però è in questi ultimi anni superata da una visione molto più ampia in cui possiamo cominciare a comprendere che effetti il cibo ha sul nostro organismo a livello molecolare, quindi stiamo parlando appunto di nutrigenomica, cioè della scienza che studia l'effetto che i nutrienti hanno sul nostro DNA e sulle nostre cellule, e si scopre un universo nuovo, un universo molto più ampio in cui gli errori quotidiani o le scelte invece corrette quotidiane hanno davvero il potenziale di garantirci longevità ma anche una grande qualità della vita. Allora, dottor Ongaro, proviamo un po' a testare la nostra dieta in base a tre variabili: energia, intesa come energia fisica e mentale, umore, ma anche resistenza. Resistenza intesa come la capacità del nostro organismo nell'evitare o nell'affrontare e superare le malattie. Da casa chiamateci quindi se vi sentite stanchi, se fate fatica a concentrarvi, se il vostro umore è grigio, se siete rassegnati a passare da un'influenza all'altra. Il dottor Ongaro ci aiuterà a capire come, dottore, riattivare, possiamo dire così, il dialogo con i nostri geni e convincerli a lavorare bene per noi? Sì, mi sembra una frase perfetta, cioè come poter utilizzare il cibo per potenziare quelle capacità che l'organismo ha di curarsi e di proteggersi e che spesso invece la vita moderna in qualche modo mette in silenzio. 800 24 00 24, i messaggi come sempre al 349 238 6666. Ma non lo so, forse sai che avrei potuto fare di più. Ma mi sento stanco, molto stanco. Ma come mi sento stanco? Ma cosa vuol dire? Ma ti senti, collega? Avrei potuto fare di più. Sergei, è la tua vita, vivila. Sbaglia, però vivila. Mi sento stanco. Hai un'autostrada davanti. Dottor Ongaro, ma noi siamo abbastanza fortunati. Sappiamo che c'è una stanchezza fisica e una stanchezza mentale, ma ai muscoli e al cervello piacciono più o meno le stesse cose. Sì, io credo che uno dei messaggi sicuramente più importanti della nutrigenomica è proprio quello di farci capire che alla fine non ci sono soluzioni miracolose o soluzioni specifiche per un organo piuttosto che per un altro, ma l'organismo è uno, le cellule tra l'altro, ricordiamolo, sono molto simili, quindi i meccanismi di funzione delle cellule neuronali rispetto alle cellule dei muscoli non sono poi così distanti tra loro, e quindi c'è un modo di mangiare che protegge noi dalla stanchezza stanchezza, dalla fatica, dai cali repentini di energia, sia sul piano mentale che sul piano fisico. Spesso, o anzi direi nella maggior parte dei casi, questi due fenomeni si associano peraltro. Ad esempio, muscoli e cervello hanno bisogno di una glicemia il più possibile costante. Sì, credo che questo sia uno dei punti più importanti, secondo me. Cioè, le persone tendono a pensare che il carico di zuccheri sia quello che ci dà energia e che ci fa concentrare. In realtà non è proprio così, perché il carico di zuccheri comporta uno squilibrio molto importante, il repentino della glicemia, che costringe il pancreas, che è l'organo che produce l'insulina, a produrre appunto molta insulina per abbassare quella glicemia. Quindi tutto sommato si ha una sorta di montagna russa che corrisponde davvero ad un alternarsi di momenti di iperattività e eccitazione, seguiti poi, quando la glicemia ritorna ad essere bassa, da momenti invece di profonda stanchezza. Quindi in realtà la strategia più corretta è quella di energizzare il corpo in maniera costante ma dolce e delicata, utilizzando non zuccheri ma carboidrati di tipo integrale, che essendo ricchi di fibra hanno un impatto sulla glicemia che è molto meno violento. Quindi, dottor Ongaro, quando ci sentiamo giù e diciamo sono stanco, mi prendo un cucchiaino di zucchero per tirarmi su, sbagliato. Beh, allora distinguiamo, è chiaro che se uno ha una crisi ipoglicemica, per esempio in un paziente affetto da diabete, lì bisogna intervenire in fretta, e l'unica cosa che ci permette di alzare la glicemia in fretta è certamente lo zucchero, il succo di frutta o simili. Però questa è una situazione estrema. Nella maggior parte dei casi, per una situazione di stanchezza, anche che si ripete a livello quotidiano in determinati, in particolari momenti della giornata, spesso i pazienti riferiscono proprio di cali di energia costanti, ripetuti in particolari momenti della giornata, ecco, in quei casi questa non è la strategia migliore, anche perché ricordiamo velocemente che lo zucchero, il glucosio, è sicuramente fondamentale per l'organismo per produrre energia, e ci sono organi come il cervello che ne hanno assolutamente bisogno. Ma quello zucchero che il corpo utilizza se lo produce da sé, partendo da alimenti più complessi, quindi certo, noi non abbiamo bisogno di zuccheri per avere zucchero nei nostri organi. Allora, dottor Ongaro, stanchezza, abbiamo dato un po' delle linee generali, ma per dare consigli più mirati può essere utile capire se siamo più stanchi di testa o di muscoli, da quanto tempo dura questa condizione e a che situazione in particolare legata. Lei faceva riferimento a pazienti che lamentano stanchezza in particolari momenti della giornata, c'è chi lo fa a metà mattina, chi alla sera arriva proprio a casa distrutto, anche ad esempio in seguito all'attività fisica, e soprattutto che effetti produce questa stanchezza? Ci toglie il sonno? Ci rende irritabili? Beh, sicuramente la distinzione tra la stanchezza prevalentemente mentale e quella fisica è di fondamentale importanza per capire anche quali tipi di interventi poi adottare. La stanchezza mentale, insomma, diciamo in termini molto semplici, si avverte soprattutto con cali di concentrazione, sbalzi di umore, spesso irritabilità, e anche, come è stato appena detto, si associa spesso, che sembra un paradosso, a insonnia e difficoltà nel dormire. La stanchezza fisica invece è più quella, diciamo, che si ripercuote sulla capacità di fare qualcosa con il nostro organismo, quindi di fare una corsa per prendere l'autobus o di fare le scale, si accompagna spesso a indolenzimento dei muscoli, a proprio fatica nel portare una borsa, e sono due fenomeni che a volte si associano ma a volte non sono uniti nella stessa persona. Comunque riflettiamo sulla qualità della nostra dieta. In linea con noi abbiamo Gabriella, ci chiama da Udine, 800 24 00 24. Gabriella, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Io sono una chef e un'insegnante di cucina, ho una scuola di cucina. Sì. Sono tantissimi anni che faccio questo lavoro e io ho pensato che una scuola di cucina non doveva dare soltanto delle ricette, e senza appunto la presunzione di essere un medico o un nutrizionista, io cerco di dare, anche grazie ai vostri consigli, cerco di dare delle piccole indicazioni alle persone che vengono a scuola di cucina, perché io credo che cucinare e imparare a cucinare dal punto di vista tecnico sia molto importante. Però bisogna anche abbinare a questo alcune piccole nozioni, alcuni piccoli accorgimenti per riuscire a cucinare nella maniera corretta e quindi a tutelare un po' la nostra salute. Non ci, solo dia, fisica, ci regali un consiglio, Gabriella. Anche interiore. Beh, io naturalmente facendo anche dei corsi di alta cucina, eccetera, consiglio sempre di innanzitutto dosi piccole. Ecco, questa è la cosa. Anche il dottor Ungaro ci ha insegnato a distribuire, a formare il piatto. Dottore, si ricorda? Diciamo intanto grazie Gabriella per questo intervento, perché credo che sia fondamentale unire le regole di una corretta nutrizione con il piacere di mangiare. Credo che questo sia possibile, però molto dipende proprio da questo tipo di servizio offerto alle persone, cioè impariamo a cucinare bene ma i cibi giusti. Per quello che riguarda il piatto, beh, insomma, chi mi segue lo sa, io raccomando di utilizzare il più frequentemente possibile un piatto unico in cui metà piatto sia dedicato alla verdura e grosso modo l'altra metà dividerla in due e fare un angolo per i carboidrati integrali, soprattutto il riso integrale, la pasta integrale, e l'altro angolo delle proteine di buona qualità. Luciana in linea con noi da Roma, buongiorno Luciana, benvenuta. Buongiorno, grazie. Io volevo fare una domanda al dottore, al dottor Ungaro, perché sì, io ho 39 anni, anche se dimostro di meno, devo dire. C'ho un bambino piccolo di 11 mesi e io sono molto stanca, per ragioni ovvie poi certo, no? Io sono riuscita praticamente a perdere tutto il peso che avevo messo su durante la gravidanza. Quanto è aumentata in gravidanza? Guardi, io sono una, penso che intorno ai 13-14 kg, che è un pochino più di del ma peso. Ma poco poco, vero, dottor Ungaro? Sì. Alta poi, tra l'altro, per cui non era però tanto... adesso la stanchezza si fa sentire, i bambini piccoli impegnano parecchio, il rischio di andare in riserva esiste realmente, per cui la dieta è assolutamente importante, ma dottor Ungaro, molte mamme hanno come Luciana il desiderio di ritornare in forma, di perdere quei chili che hanno accumulato e che non sempre se ne vanno via rapidamente. Sì, diciamo che è un fenomeno molto tipico questo, della mamma con i bambini ancora piccoli che è stanca e fa fatica a mantenere il peso forma, a recuperare l'energia che aveva prima della gravidanza. Ci vogliono due cose, la prima un po' di pazienza, perché i bambini poi crescono, si ritorna a dormire normalmente, si riprendono dei ritmi più adeguati. La seconda è cominciare da subito dopo la gravidanza, o addirittura anche durante la gravidanza, a curare la nutrizione al massimo, perché se ci sono degli errori nutrizionali che vengono, diciamo, amplificati dalle cambiamenti metabolici che insorgono durante la gravidanza, questi poi possono permanere e contribuire diciamo a una situazione dismetabolica che la donna poi si trascina nel tempo. Però direi non allarmiamoci, perché la situazione dei bambini piccoli è caratterizzata proprio da un livello di stanchezza abbastanza elevato nella mamma. Dottor Ungaro, ma quali alimenti deve dare la preferenza una giovane mamma? Una giovane mamma secondo me non ha delle regole di per sé diverse da tutti gli altri, quindi io ricordo sempre di non esagerare mai con troppi carboidrati e soprattutto con gli zuccheri, e di non dimenticarsi di mangiare una buona quota di proteine che servono ovviamente a mantenere i muscoli in condizione adeguata, e poi mi raccomando alla mamma di prima, riprendere il prima possibile a fare attività fisica, che permette ovviamente di rimettere in moto l'organismo dopo un periodo faticoso come quello della gravidanza, del parto, certo, e dei mesi immediatamente successivi. Quindi dottor Ungaro, il messaggio è: se siamo stanchi non lamentiamoci, ma nutriamoci e muoviamoci, eh? E nell'attesa delle telefonate un rimedio antistanchezza, un intervento spot, ci arriva dallo yoga. In linea con noi Benedetta Spada, insegnante di yoga. Benedetta, bentornata. Ciao Nicoletta. Allora, stanchezza, abbiamo declinato stanchezza fisica, stanchezza mentale, lo yoga ci viene in aiuto? Sì, nutrendo il nostro buon umore. E come? Attraverso il nostro respiro. Impariamo a respirare correttamente. Quando siamo stanchi ci sediamo o anche troviamo una posizione confortevole, mettiamo una mano all'altezza del nostro ombelico e iniziamo a respirare inspirando profondamente tratteniamo per quattro tempi il nostro respiro e poi espiriamo dalla bocca altrettanto profondamente, magari in maniera anche abbastanza sonora. Sì. Facciamo questo per almeno 4-5 volte, dedichiamoci pochi minuti. E poi per riattivare la nostra attenzione, la nostra concentrazione e riprendere magari anche questo esercizio prima di un pasto, taschiamo con il pollice il mignolo di una mano e dell'altra con dei battiti, proprio come se volessimo picchiettare il polpastrello, per 8 volte, ripetendolo 4 volte, 8 battiti per 4 volte. Tempi. Esatto. Dottor Ongaro, nel suo sito, che è ricco di informazioni, lei dedica molto spazio anche alla respirazione, a riossigenare il nostro organismo, a ritrovare quell'energia. Beh, senza dubbio, infatti trovo che l'esercizio descritto da Benedetta sia insomma la base per ritrovare un corretto equilibrio anche sul piano psicofisico. Ricordiamo sempre che non c'è una separazione tra mente e corpo, come purtroppo ci hanno insegnato troppo spesso la medicina occidentale. Mente e corpo sono un tutt'uno e le influenze sono profondissime, in particolare nei confronti di due organi che sono il cuore e l'intestino, che sono ricchissimi di tessuto nervoso e quindi risentono molto degli stati emotivi. Il respiro è uno di quei meccanismi che ripristina ordine, sincronizza la comunicazione tra i vari distretti e i vari organi, attiva il metabolismo e soprattutto contribuisce a una respirazione corretta, addominale, diaframmatica e lenta, contribuisce a scaricare dalla quantità molto elevata di stress che noi accumuliamo nella vita quotidiana di tutti i giorni. Questo è inevitabile. Benedetta, hai un altro piccolo intervento da suggerirci? Ma quello che possiamo fare è cercare di ascoltare il battito del nostro cuore e cercare di ripetere mentalmente, a volte quando siamo particolarmente stanchi, delle frasi che possono aiutare la nostra mente a scaricare le tensioni o quei blocchi emotivi che ci sopraggiungono durante la giornata. Quindi ad esempio noi, sempre nell'ascolto del respiro e del battito calmo e regolare del nostro cuore, possiamo ripetere mentalmente un mantra, una frase che ci aiuta, come ad esempio il battito del mio cuore è calmo e regolare, e restare in questo tempo, in questo spazio per qualche secondo. Come diceva il dottore, corpo e mente sono correlati, la sincronia di tutti questi elementi messi insieme ci porta poi a vivere meglio quotidianamente. Certo. E anche ad alimentarci meglio, quindi se ci nutriamo meglio stiamo bene. Quindi ritroviamo l'armonia attraverso una dieta equilibrata e corretta, una dieta capace di parlare ai nostri geni, e attraverso la respirazione che ci dà il ritmo, il passo. Grazie a Benedetta Spada, è tempo di andare a sentire i mercati, poi il meteo e poi di nuovo qui accanto a me sempre Simone Spezia. Simo, tu sei... Sì, siamo pronti. Quando monti esce dall'incontro con Napolitano, lo faremo sentire. Grazie. Essere e benessere. E siamo tornati insieme. In linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro, che ci aiuta, ci insegna a scegliere la dieta giusta per noi, una dieta che è capace di darci energia, di farci tornare il buon umore, di farci sopportare il carico quotidiano. Stefano ci chiama da Torino. Buongiorno a lei, Stefano, benvenuto. Sì, buongiorno. Io ho telefonato solo perché volevo portare un po' la mia personalissima esperienza, nel senso che ho avuto un periodo in cui ero decisamente sovrappeso e seguendo un regime alimentare molto bilanciato tra proteine, grassi e carboidrati, ho ottenuto dei benefici impensabili. A parte un dimagrimento netto anche. E si sente meglio, cioè ha perso peso e ha ritrovato energia. Assolutamente sì. Qual è stata la cosa più faticosa, Stefano, di questa trasformazione, di questo aggiustamento del suo stile alimentare? Ma se devo dire, forse la prima settimana il senso di appetito era decisamente elevato. Poi invece, incredibilmente, ho notato che anche quello si è così stabilizzato. No? Quella fame... impossibile che sentivo è svanita. Devo dire che ho incrementato notevolmente l'acqua, nel senso che anche attualmente bevo circa 2,5 litri di acqua al giorno. Sì. Tante volte noi infatti confondiamo lo stimolo della fame con quello della sete. Dottor Ongaro, la prima settimana è duretta, lo sappiamo, no? Tutti i cambiamenti all'inizio richiedono di sicuro. Sacrificio. Stefano ha detto due cose interessanti. La prima è che la perdita di peso in quasi tutti i pazienti si accompagna ad una ritrovata forma fisica e mentale e generale, quindi non è soltanto una perdita del grasso, ma è la rimessa in moto di tutta una funzione metabolica che ha a che fare col benessere a 360 gradi. La seconda cosa è che certamente il primo stimolo che noi sentiremo in qualsiasi cambiamento alimentare è quello della fame, ma non tanto perché sia naturale questo, quanto perché è innaturale l'alimentazione un po' scoordinata e ipercalorica che abbiamo oggi. Certo. E quindi nel cambiamento verso un'igiene alimentare migliore, la prima settimana, i primi 10 giorni, ovviamente l'organismo sentirà questo cambiamento e partiranno tutti i meccanismi collegati alla fame. Questo è destinato a cessare in pochi giorni, perché proprio si ritrova un equilibrio tra introito di alimenti e regolazione della fame. Barbara ci chiama dalla provincia di Roma, benvenuta a lei. Buongiorno. Noi bene, bene. Io ho un po' di raffreddore, ma è tempo. Barbara. Allora, stavo ascoltando i sintomi che aveva dato per quanto riguarda la stanchezza sì, mentale. Sì, valutiamo la dieta, stanchezza, umore e difese del nostro, il nostro sistema immunitario. Come funziona? Ci ammaliamo spesso oppure no? Barbara, lei lamenta una certa stanchezza. Sì, quello sì, per cui faccio molta fatica a stare concentrata, diciamo che riesco a stare concentrata su alcune cose, a volte 5-10 minuti, poi comunque mi distraggo. La notte ho problemi seri di insonnia, per cui mi ritrovo a volte alle 4 alle 5 ancora con l'occhio sbarrato. Dottor Ongaro, ci sono degli alimenti che possono aiutare Barbara? Beh, allora attenzione, perché è ovvio che se la persona dorme male, la stanchezza è principalmente una conseguenza dell'insonnia, e lì bisogna partire con il ripristinare un ritmo del sonno che sia corretto. Certo. Poi sicuramente c'è una connessione molto stretta tra alimenti, umore, stanchezza e concentrazione, per un motivo molto semplice: i neurotrasmettitori che governano la funzionalità del nostro cervello sono derivati da aminoacidi che noi assumiamo con l'alimentazione. Quindi nel caso di una bassa concentrazione io propenderei con l'aumentare un po' la quota di proteine, soprattutto per quello che riguarda le proteine di buona qualità, in particolare il pesce, che è anche ricco di omega 3, che hanno una funzione di stabilizzazione dell'attività dei neuroni. Ecco, al commento di ascoltatori che quando noi consigliamo di consumare pesce mi dicono: ma dove vivete, il pesce costa? Noi proponiamo il pesce azzurro. In realtà quello del pesce, che è più caro di altri alimenti, insomma, è vero. È sicuramente vero, però non bisogna sapere i pesci di considerati tra virgolette pesci poveri, tra cui le sarde, le sardine, gli sgombri, sono peraltro i pesci migliori, sono ricchi di omega 3, quindi di grassi buoni, e essendo pesci di piccola taglia incamerano molto poco le tossine e i metalli pesanti che purtroppo ci sono nei nostri mari, e da ultimo non sono mai pesci allevati. Quindi diciamo che possiamo combinare, associare un pesce che ci costa poco e che ci dà tanti benefici sul piano della salute. Yeah. Sono Joe Fox. Che cosa ci fai? Scusa, posso salire? No, io non credo proprio che sia una buona idea, perché ho un terribile raffreddore. Lo senti o no? Sì. Certo che lo senti. Senti, continuo a starnutire e non sono granché sveglia. Sto prendendo echinacea e vitamina C e dormo praticamente 24 ore al giorno e ho pure la febbre. Dacce posta per te. La domanda è questa: come mai alcune persone tendono ad ammalarsi molto spesso di influenza, raffreddori come quello che ho io, herpes, e altri invece no? C'è modo di aiutare il nostro sistema immunitario a difenderci come si deve? A proposito di difese, che cosa sono i globuli bianchi e qual è la loro funzione? Chiamatemi 800 24 00 24 e la prima risposta esatta potrà ricevere a casa il libro I guardiani della vita di Alberto Mantovani. E il professor Alberto Mantovani è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e auguri per il raffreddore. Grazie, professore. Intanto ricordo che il professor Mantovani è immunologo ed è direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e docente all'Università di Milano. Professor Mantovani, lei nel suo libro di cui abbiamo parlato racconta come è fatto e come funziona il nostro sistema immunitario, che è un delicato e sofisticato meccanismo di difesa da cui dipende in fondo la nostra esistenza. C'è modo di aiutarlo a lavorare bene? C'è modo ad aiutarlo a lavorare bene, innanzitutto con i vaccini, ma visto che stiamo parlando di alimentazione, è opportuno ricordare che quando andiamo in sovrappeso, il grasso contiene molte cellule infiammatorie, anzi ci sono quasi più cellule infiammatorie che non cellule grasse. E questo crea uno sbilanciamento, il nostro sistema immunitario è un po' disorientato e questo contribuisce a metterci più a rischio di malattie cardiovascolari, di diabete e anche di qualche tumore. Quindi un primo modo in cui possiamo allenare il nostro sistema immunitario è quello appunto di non andare in sovrappeso. Poi abbiamo una raccomandazione generale. Diamola. Così mi prendo 0530, 0 sigarette, perché fanno tanti guasti, compresi guasti al nostro sistema immunitario, 5 volte al giorno di frutta e verdura fresca e 30 minuti di esercizio fisico moderato al giorno, che è un modo per allenare i nostri muscoli, ma anche il nostro sistema immunitario. 0530, ricordiamoci questa formula. Intanto, professor Mantovani, prima di salutarla, vuole dare un piccolo aiuto ai nostri ascoltatori per rispondere alla domanda sui globuli bianchi, che hanno anche un altro nome, vero professore? Si chiamano anche in gergo leucociti e comprendono linfociti, neutrofili, e varie cellule che vediamo quando ci arrivano gli esami del sangue. E quindi e sono molto importanti, diciamo così. Grazie al professor Mantovani, io aspetto la vostra risposta, perché la prima risposta esatta permetterà di ricevere a casa il libro del professor Mantovani, I guardiani della vita, di Dalai, editore in collaborazione con la libreria Rizzoli.it. Professore, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Riccarda, buongiorno, ci chiama da Verona? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, tanto buongiorno signora Nicoletta, e la sento molto spesso. Brava. Ecco, io volevo fare questa domanda. Sì. È un figlio che lavora e non rientra per il pranzo. Sì. Il lavoro è abbastanza pesante, è medico, ha le prime armi, e io faccio normalmente, preparo un primo pasta con magari verdure e un po' di frutta. Sì. Ecco, volevo sapere se è un discorso che può andare bene o se si può migliorare. Dottor Ongaro, mamma Riccarda prepara quella che può essere, no? Qua a Milano si chiama la schiscetta, per questo giovane medico. Allora, ricordiamo intanto che i medici, i colleghi, sono tra le categorie più sotto stress e con più problemi di orari, turni, quindi è sicuramente una categoria da proteggere. Direi che l'impostazione può anche andare bene, signora, però sono tanti carboidrati, la pasta, la verdura e la frutta sono in sostanza tre versioni differenti di carboidrati. Scegliamo perlomeno di utilizzare la pasta integrale invece di quella bianca, vedrà che suo figlio avrà più energia per trattare i suoi pazienti più a lungo nel corso della giornata. Sì, perché dobbiamo farli anche stare bene questi medici, così sono belli, vispi, vivaci, di buon umore, ci curano per bene, speriamo di non averne bisogno. Noi dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ricordatevi che cosa sono e che cosa fanno i globuli bianchi, i leucociti, come ci ricordava il professor Mantovani. 800 24 00 24, Simone Spezzi è sempre qui accanto a me. Sì, sono qua, non è ancora in corso l'incontro. Il presidente del consiglio incaricato Mario Monti è arrivato da Napolitano intorno alle 11:05, una cosa di questo genere. Semplicemente l'incontro è ancora in corso, siamo qua e aspettiamo che esca fuori con la lista dei ministri. Essere e benessere. Dottor Ongaro, torniamo al cibo. Per prevenire le malattie da raffreddamento, molti di noi ricorrono alla vitamina C, di cui gli agrumi sono particolarmente ricchi. Abbiamo sentito un breve estratto, c'è posta per te, la protagonista diceva vitamina C, echinacea. vanno sicuramente bene, hanno delle proprietà antiossidanti e immunostimolanti, quindi ci aiutano sicuramente a debellare più in fretta una patologia da raffreddamento, una patologia infettiva, però ricordiamoci anche un altro aspetto, c'è un motivo per cui ci ammaliamo di più di queste patologie durante l'inverno, è un aspetto che è stato trascurato per molto tempo ed è un aspetto molto semplice, la mancanza di esposizione alla luce solare che impedisce la produzione sufficiente di vitamina D, e la vitamina D, contrariamente a quello che si pensava, non è solo utile per le ossa, ma è un importantissimo regolatore dei meccanismi immunitari e quindi delle difese immunitarie. Grazie alla vitamina D addirittura si producono delle molecole che sono proprio chiamate difensine e hanno delle proprietà importanti nel proteggerci dalle infezioni. Quindi vedete, c'è un problema ovviamente alla nostra latitudine, l'esposizione alla luce solare nei mesi invernali è scarsa ed infatti proprio in quei mesi ci prendiamo più patologie di questo tipo. È importante eventualmente parlare con il proprio medico di questo, farsi dosare la vitamina D con un semplice esame del sangue ed eventualmente anche integrarla con dei prodotti mirati. Abbiamo in linea con noi Marcella che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Marcella, benvenuta. Buongiorno, grazie, complimenti per la trasmissione. Ci racconti? Niente, io ho 35 anni, una bambina che frequenta l'asilo nido. Ho notato che a ogni suo raffreddore, a ogni suo malessere corrisponde anche un mio malessere fisico. Certo. Prima della gravidanza non mi ammalavo quasi mai, adesso non so, noto queste frequenti insomma infezioni, specialmente alle vie respiratorie. Chiedevo se l'alimentazione poteva dare una mano in questo senso, certo. Magari un po' più preventivo, non il so, cibo, a me, alla bambina. Il cibo che aiuta a prevenire e il cibo che cura, dottor Ongaro. Beh, guardi, io le rispondo in maniera molto generale, cioè non c'è malattia che non tragga beneficio da un'alimentazione corretta, forse soltanto i traumi, ecco, perché difficilmente un'alimentazione corretta ti può prevenire da un trauma, però diciamo per tutto il resto, l'alimentazione corretta, giusta, che fornisce cibi buoni, puri, poco raffinati, ricchi di nutrienti, avrà sicuramente la capacità di potenziare i nostri meccanismi di difesa, e come diceva prima il professor Mantovani, ovviamente il sistema immunitario è centrale in questo, cioè se ci manca la capacità di reagire alle tante infezioni a cui siamo esposti, è chiaro che subentra la malattia e il sintomo. Avere vicino dei bambini è una delle fonti più importanti e costanti di agenti infettivi, i bambini devono formare il proprio sistema immunitario ed è quindi anche normale e in un certo senso anche utile che si infettino in modo tale da imparare proprio a reagire agli agenti infettivi, magari è un po' diverso per l'adulto, ma certamente curare l'alimentazione secondo le linee guida che più volte noi suggeriamo in questa trasmissione potrà proteggerla un po' di più da queste infezioni ricorrenti. Abbiamo Gianni che ci chiama dalla provincia di Milano, mi segnalano per la risposta al nostro quesito, che cosa sono e che cosa fanno i globuli bianchi o leucociti. Gianni, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei la sa? Ma ci proviamo. Dai. Ma secondo me sono una sorta di sentinelle che abbiamo nel sangue che si occupano di scoprire i virus che abbiamo e distruggerli. Dottor Ongaro, la possiamo passare? Come no, è un'ottima definizione quella di sentinella. Bravissimo, e allora al nostro ascoltatore Gianni, in collaborazione con la Rizzoli.it, i guardiani della vita. Ma voglio parlarvi di un altro libro che ci racconta, che ci dipinge un ritratto inedito di un'attrice dal talento straordinario. In linea con noi abbiamo Serena Autieri. Ciao Serena. Buongiorno, buongiorno. Tutti. Nel tuo libro Un pizzico di sale riveli proprio questo lato inedito di te, perché tu sei una cuoca sopraffina, molto attenta alla qualità degli ingredienti, sei proprio a te piace sperimentare, sei curiosa e credi soprattutto nel cibo come occasione di benessere, di salute, di socializzazione, di buon umore, e raccogli tutti questi aneddoti, piatti, ricette che hai trovato sul set, in giro un po' per il mondo e in cucina, edito da Kowalski, e ne fai veramente un libro di ricette molto gustoso, divertente. Se io ti dico buon umore, tu a quale ricetta l'associ? Alla parmigiana di melanzane. No, sì, in realtà il cibo è un pretesto, è un mezzo per raccontarmi, per raccontare la passione forte che ho sempre avuto da bambina, trasmessa un po' dalla mia famiglia, dalla tradizione delle mie nonne, e quindi è anche un modo per raccontare appunto le tradizioni della mia famiglia, i valori che mi hanno trasmesso, insomma qualcosa che oggi è un po' si presi dalla vita, dalla frenesia, si dà poca attenzione. Per me cucinare per le persone è un gesto d'amore, è un momento anche per me speciale di creatività in cui mi posso ispirare ai vari personaggi, alle varie forme d'arte, insomma, di cui mi occupo, e quindi è una parte della mia casa che mi piace particolarmente, devo dire. Sì. E poi è un'arma anche importante, lo è stato per tanti anni, abbiamo conquistato tantissimi uomini, i nostri mariti, i nostri fidanzati, insomma è un'arma importante che dobbiamo riscoprire e alimentare, ma non dobbiamo assolutamente, come dire, vergognarsene anche. Assolutamente, a tavola poi non si invecchia, lo dice, lo scrive anche, esatto, il dottor Ongaro, anzi è il dottore. Ma io credo che a tavola si possa addirittura ringiovanire e si può prevenire molto. Ripeto, è il momento di trovare questa magica associazione tra alimentazione corretta e gusto e gioia, esatto, del mangiare, anche del mangiare assieme, perché ricordiamoci che l'uomo è un animale sociale e il mangiare in compagnia è un atto fondamentale e molto bello per l'uomo. Quindi Serena, non dobbiamo associare, diciamo, la correzione alimentare a una mancanza di piacere. Anzi, noi vogliamo aggiungere gusto. Serena, tu che cosa mangerai a pranzo? Guarda, io ho preparato, proprio questa mattina mi sono svegliata molto presto, un pesto, quindi una pasta al pesto, ovviamente tutti sanno col basilico, è un po' la tradizione ligure, quindi sì, stamattina avevo quel tempo per dedicarmi a quella cosa al volo, perché poi sono andata a lavorare, che sto facendo le prove di uno spettacolo che ci vedrà Sistina per 40 giorni, che è Rinaldo in campo, e quindi sono sempre comunque attenta ai cibi pasta, freschi, insomma, a prediligere frutta e verdura di stagione. Quindi pasta al pesto per Serena Autieri oggi, aggiungerei anche i fagiolini e le patate come la tradizione comanda. Grazie a Serena Autieri, grazie al dottor Filippo Ongaro. Simone, io ti saluto. Sì, siamo qua, stoicamente attendiamo il professor Monti. Non ti verrà neanche il raffreddore. Buona giornata, noi ci sentiamo domani. Essere e benessere.